Bene, torniamo in diretta, finalmente ci siamo, abbiamo avuto un piccolo problema tecnico col computer, ma adesso è stato ampiamente risolto e siamo qui con voi dagli studi di Radio Centrale a Termini Imerese per tenervi compagnia anche questo mercoledì, purtroppo con un leggero ritardo, ma appunto non è stata colpa nostra, it's not my fault, dicono gli americani. Abbiamo avuto problemi. Perché non metti nella webcam noi stessi così ci vedete e siete tutti più attenti. Allora, oggi grande puntata, ma prima diamo i nostri contatti. Allora, potete trovarci all'indirizzo facebook.com/londa in onda, all'indirizzo twitter.com/onda in onda invece, e da qui poi potrete ascoltarci su radiocentrale.it e vederci in streaming appunto audio e video su radiocentrale.it. Adesso appunto vedete finalmente noi, eccoci qua, siamo in regia, guardate che siamo belli, ma io c'ho il microfono davanti, siamo, la secondo faccia. Me siamo i più belli in tutto il mondo, siamo streaming, i più belli della radio. Fra un po' ci raggiungerà Antonio, finalmente torna con noi, fra qualche minuto dovrebbe essere qui in studio, e oggi abbiamo un'intervista molto bella con il Teatro degli Orrori, storica band del rock italiano, che ci raggiungerà telefonicamente qui su Radio Centrale, e noi vi faremo ascoltare la loro viva voce e quello che hanno da dirci sul loro ultimo album. Visto che il tempo stringe, Antonio ancora non arriva e l'orario concordato per l'intervista è quasi vicino, noi ci ascoltiamo subito un loro pezzo, che io pregherei il mio regista di mettere, purtroppo la scaletta è andata un po' a farsi fottere, visto che insomma ma tu dimmi ce lo e voglio, c'erano un po' di pezzi da mettere. Il primo del Teatro degli Orrori che vedrai è quello che devi mettere, bravissimo. Sì, vai. Puoi anche farlo partire, non è un problema. Ci ascoltiamo il Teatro degli Orrori con A Sangue Freddo. Esatto. Il Teatro degli Orrori, li avremo fra poco i nostri microfoni e ci lasceranno un'intervista appunto sul loro ultimo album che è Il Mondo Nuovo. Vi ho ascoltato un loro pezzo del nuovo album, insomma fra poco, era Sangue Freddo, dedicato appunto a Kenzaro Uiwa. Ne ha parlato anche Saviano, tra l'altro, in una trasmissione a Che Tempo Che Fa, ha raccontato la storia di questo scrittore nigeriano che è stato impiccato indagato per scritto, diciamo, contro quella che era la politica del governo della Nigeria. E ci fa molto piacere che il Teatro dell'Orrore abbia dedicato una canzone a questo personaggio. Ripeto, appunto, fra poco li avremo in diretta, ma io dovrei ricordare di nuovo, nuovamente i contatti, visto che questa puntata è iniziata un po' in ritardo. Quindi potete raggiungerci all'indirizzo facebook.com/londainonda, la nostra pagina Facebook, oppure scriverci all'indirizzo Twitter. Noi leggeremo in diretta i commenti se ne avete da fare, twitter.com/ondainonda. Inoltre potrete appunto ascoltarci, vederci in diretta su radiocentrale.it. Bene, aspettiamo ancora qualche minuto Antonio, che arrivi dalla sua tournée nordica, che è andato dal Trota, è andato al nord e è caduta la Lega, quindi mandiamolo un po' dappertutto, mandiamolo un po' dappertutto. Antonio, vediamo, diciamo, che cosa succede. Io direi di ascoltarci un altro pezzo del Teatro degli Orrori, e subito dopo l'intervista appunto con il Teatro degli Orrori ci ascoltiamo Io cerco te. Io cerco te. Cerco te. Io cerco te. Cerco te. Qualcuno di cui non dirò il nome sa bene, sia certo lo spettacolo umano più bello che mi sia stato dato osservare da vicino. Qualcuno di cui non dirò il nome che sembra il ritratto di un uomo che macchina che passa in via Togliatti, nei visi tristi di gente stanca di vivere così, negli appartamenti dove nascondere la voglia di andar via, il mondo nuovo, l'oceano, stella sudamericana mia, io non ricordo più il tuo nome. Nome. Io cerco te. We'll be right back. Rientriamo, era appunto il Teatro degli Orrori con il loro nuovo album, Il Mondo Nuovo, questa era Io Cerco Te. Allora, abbiamo qualche difficoltà a contattare Jonathan Mirai, il chitarrista del Teatro degli Orrori. Oggi sta succedendo di tutto, voi non ci crederete, ma qui in studio stanno cadendo i santi praticamente per sono pure risaliti. Sono pure risaliti, sì, i santi stanno cadendo e risalgono. Niente, oggi... Ecco, sì, come vedi, è anche successo. Sta lasciando tutto, tutta la nostra attrezzatura se ne sta andando. Allora, direttore, noi facciamo un appello. Secondo me oggi qua dentro c'è qualche cosa di soprannaturale. Bisogna chiamare il prete e si spengono monitor, oggi si spengono i monitor, si sballano computer, playlist, tutto. Ma va bene, ora cercheremo di metterci in contatto. Intanto vi facciamo ascoltare, insomma, quella che è stata l'intervista con seguita pochi minuti prima della mancata, in realtà, messa in onda dell'onda in onda. Sembra una tautologia incartatrice da sola. Ci saluta Antonio, in questo momento ci tiene a farcelo sapere, così noi bestemmiamo ancora di più. Ovvio. Sì, che sta arrivando. Se sta arrivando ci saluta. Non lo capisco. Sì, ciao, sto arrivando. L'intervista appunto abbiamo avuto con Giovanni Bianconi del Corriere della Sera riguardo alla vicenda di Adinolfi, nel senso, per chi non lo sapesse, a Genova c'è stato questo attentato all'amministratore delegato dell'assalto nucleare Adinolfi. Ce ne siamo occupati la scorsa puntata aprendo, tra l'altro era il 9 maggio, quindi abbiamo aperto con due citazioni, che era appunto la trasmissione di Peppino Impastato e la dichiarazione, la telefonata fatta dalle Brigate Rosse per l'assassino di Moro. Visto che l'incubo terrorismo è sempre in agguato nel nostro paese, soprattutto in momenti di crisi come questo, ci è sembrato doveroso citare anche quello che era successo a Genova all'amministratore delegato dell'ansaldo nucleare, e per capirne di più, dato che ci sono stati recenti processi aperti alle BR, nuclei delle BR, il processo di appello, ci sono stati dei momenti di tensione in aula con le quali è stato portato sostegno ai brigatisti, non solo, ma sono stati anche sparsi volantini che poi erano i vecchi comunicati delle BR, quindi sembra che il clima si stia un po' si sia un'escalation di clima di tensione. Abbiamo voluto saperne di più appunto da un esperto che è Giovanni Bianconi del Corriere della Sera. L'intervista ce l'ha lasciato pochi minuti fa e noi ve la facciamo ascoltare subito. Siamo in diretta con noi al telefono Giovanni Bianconi del Corriere della Sera per discutere appunto i recenti fatti che sono accaduti a Genova al amministratore delegato dell'ansaldo nucleare Adinolfi. Benvenuto Giovanni Bianconi. Benvenuti a voi, buonasera. Grazie. Giovanni, allora io volevo discutere con te un attimo la questione appunto dell'escalation che sembra esserci di terrorismo che sta rispuntando un attimo in Italia. C'è stata questa rivendicazione del FAI, del gruppo Olga, ma ti sento un po' disturbato, Giovanni, sei in giro? Pronto? Pronto, ti sentivo un po' disturbato. No, dicevo, c'è stata questa rivendicazione del FAI, il gruppo Olga. Spiegaci un attimo, insomma, cosa diceva il comunicato e cos'è avvenuto. È avvenuto che un gruppo di anarchici, cioè di un nucleo che è armato evidentemente, che ha deciso di armarsi, ha preso un'altra squadra rispetto a quello che fino adesso i gruppi anarchici avevano fatto, cioè di colpire direttamente una persona con un'arma da fuoco, con un ferimento diretto, diciamo, non più con i pacchi bomba di cui avevamo avuto esperienza nei mesi e negli anni precedenti. E questo è il cosiddetto salto di qualità che un gruppo si è attribuito la responsabilità di voler fare. Giovanni, si era fatto riferimento nei primi giorni dopo l'attentato al nuovo possibile ritorno delle Brigate Rosse. Tu hai dichiarato ai microfoni di Schedi G24 che l'attesa, e poi è stato fatto dopo 4 giorni, se non sbaglio, il comunicato, avrebbe escluso le Brigate Rosse. Eppure nel processo di appello alle nuove BR ci sono stati dei momenti di tensione in aula e si è inneggiato alla rivoluzione. È stato il processo su Alfredo D'Avanzo. Ora, questo inneggiare alla rivoluzione da parte degli, diciamo, gente che appoggia le BR, e il fatto che le BR invece siano non c'entrino con questo fatto, è un segno di un clima di tensione che c'è nel paese? Cioè, c'è un un possibile veramente ritorno al, a quelli che erano gli anni di piombo. Insomma, sono tutte cose diverse tra loro, perché l'attentato è stato rivendicato dagli anarchici ed è una cosa anarchica, non ha niente a che vedere con le Brigate Rosse degli anni 70 e con, forse nella metodologia, più tanto richiama quel periodo, e comunque in ogni caso le Brigate Rosse sono un'esperienza che già si era esaurita a metà degli anni 80, poi c'è stato una un revival, chiamiamolo così, con un gruppo di persone che ha tentato di riproporre quella sigla tra il 99 e il 2000, ma anche quelle sono state bloccate. Quelle che adesso si chiamano le cosiddette nuove Brigate Rosse, il processo di Milano, in realtà è un altro gruppo armato che non sono le Brigate Rosse, ma è un gruppo, diciamo, ugualmente di lotta armata, ma dice, non sono le Brigate Rosse della Lioce, sono un altro tipo di Brigate Rosse. Quanti polemizzavano con la Lioce e con l'omicidio d'Antona. Dopodiché loro non hanno rivendicato il ferimento di Adinolfi, hanno semplicemente detto che il momento è propizio per la rivoluzione. Altri brigatisti in carcere della vecchia guardia, chiamiamoli così, pure dicono che il momento è propizio, ma non ci sono le forze soggettive necessarie per fare qualche cosa. Cioè, quindi diciamo che ci sono singole opinioni anche divergenti su, perché poi all'interno del mondo anarchico ad esempio c'è chi contesta l'azione Adinolfi, quindi l'attentato ad Adinolfi. Quindi io non parlerei di ritorno degli anni di piombo, parlerei di una situazione frastagliata e confusa che certamente è agevolata anche dal clima sociale che c'è nel paese, dalla crisi economica, tutte queste cose che naturalmente possono favorire azioni come quella di Genova, però parlare di un ritorno agli anni di piombo è un'altra cosa, ecco. Ma questo clima, no, di appoggio più che altro al processo delle BR c'entra un po' con il clima di crisi e si ricollega in qualche modo, almeno lo ricollego nei giornali, a quello che è l'attentato ad Adinolfi? Cioè, come si coniugano questi due eventi che sembrano separati però con l'attentato vero e proprio? No, cioè, alla fine l'ansaldo nucleare, voglio dire, non rappresenta così quello che è la lotta proletaria che volevano fare le BR o che è comunque quello che perseguono gli anarchici. Cioè, perché colpire proprio Adinolfi? Nel comunicato loro spiegano che hanno agito, hanno sparato contenti di farlo. Sì, hanno sparato contenti e neanche rivendica, neanche sono alla ricerca del consenso sociale, mentre invece il terrorismo, chiamiamolo così, parabrigatista, invece cerca proprio il consenso sociale. È chiaro che sono due cose diverse, ma diciamo anche ideologicamente, ontologicamente, l'anarchia è una cosa diversa da un'organizzazione comunista burocratica, per certi versi anche come sono i partiti armati che si richiamano alla tradizione marxista-leninista. Quindi sono due cose completamente diverse. Dopodiché c'è una questione di fondo, insomma, le Brigate Rosse sono nate nelle fabbriche all'inizio degli anni 70, oggi non ci sono più le fabbriche degli anni 70, non ci sono più gli operai, non c'è più l'operaio massa che c'era in quel periodo. Continuare a fare paragoni, l'unico paragone è il fatto che si usano le pistole per fare attentati, ma i contesti e le dinamiche di 30 anni fa rispetto a quelle di oggi sono del tutto diverse. Ma di questo gruppo del FAI noi cosa sappiamo? Cioè, chi sono questi qui del FAI? Sono degli anarchici individualisti che si mettono d'accordo e da soli decidono di fare un'azione totalmente svincolata dagli altri, poi dopo si ricollegano coi volantini e si forniscono appoggio reciproco e solidarietà reciproca, ma non ci sono collegamenti operativi tra un gruppo e un altro, e questo per certi versi è pure più pericoloso, nel senso che io prima dicevo non c'è il contesto, ma a loro non interessa che non ci sia il contesto, anche in una situazione del tutto avulsa da una rivoluzione o da qualcosa di questo genere, loro ugualmente vogliono testimoniare la loro presenza con questi singoli atti che naturalmente sono molto dannosi per le persone che vengono colpite. Il Corriere riporta che c'è anche il PM di Bologna nel mirino degli anarchici, ma quali altre, penso che siano stati i servizi, insomma, a fornire queste indicazioni, quali altri personaggi ci sono nel mirino degli anarchici, se ce ne sono e il perché? Vabbè, i procuratori di Bologna sono alcuni che sono stati più volte oggetto di attacchi verbali da parte degli anarchici, perché hanno delle inchieste sugli anarchici stessi, quindi è evidente che dovendo immaginare dei possibili obiettivi, loro sono alcuni obiettivi, così come i dirigenti dell'Ancialdo che vengono attaccati nel volantino di rivendicazione dell'attentato ad Adinolfi sono dei possibili bersagli, ma ce ne sono tanti altri, e quindi diventa pure un problema proteggerli tutti, infatti questo. Insomma, ne sappiamo ancora poco di questi anarchici. Speriamo, insomma, che non colpiscano più e che si crei un movimento sociale che possa contrastarli, oltre i nostri servizi e gli inquirenti che stanno svolgendo le indagini. Va bene, ringraziamo allora Giovanni Bianconi del Corriere della Sera per averci raggiunto e, insomma, ti ringraziamo, continuiamo la programmazione qui su Radio Centrale. Grazie Giovanni. Grazie a voi. Grazie, buonasera. Bene, allora torniamo in diretta. Avete sentito l'intervista con Giovanni Bianconi del Corriere della Sera. Abbiamo proprio qui al telefono, ci ha raggiunto Jonathan Mirai del Teatro degli Orrori. Ciao Jonathan, benvenuto su Radio Centrale. Ciao a tutti, buonasera. Ciao, allora abbiamo ascoltato già due vostri pezzi, A Sangue Freddo e Io Cerco Te, e del vostro nuovo album, Il Mondo Nuovo, è uscito a gennaio di quest'anno, un concept album di 16 canzoni. In principio, se non sbaglio, avrebbe dovuto intitolarsi Storia di un immigrato, in omaggio a De André. Vorrei chiederti, cos'è Il Mondo Nuovo per il Teatro degli Orrori? Il Mondo Nuovo è una cosa che sta succedendo. Non c'è una connotazione negativa o positiva. Questa cosa, un mondo nuovo è necessario e sta a noi, in modo che sia un mondo diverso e migliore di cui ci troviamo. Questa è un po' la nostra idea del mondo nuovo. Senti, il titolo dell'album è ispirato appunto al mondo nuovo di Huxley, nel quale si voleva forgiare un nuovo modello di società, voi trattate temi molto attuali, appunto come quello dell'immigrazione, questo concept album è tutto sull'immigrazione, ma il Teatro degli Orrori ha sempre acceso i riflettori su, diciamo, possiamo dirlo, sugli ultimi, come la storia di Kenzaro Uiwa che abbiamo ascoltato poco fa, abbiamo citato anche Saviano che ne ha parlato, o la storia di Yon Kazaku. Questa scelta di raccontare le storie degli ultimi aiuta a cambiare veramente le coscienze, come nel romanzo di Huxley? Ci sono piccole storie di piccoli uomini che però cercano nel loro piccolo di fare grandi cose, come anche semplicemente avere un contratto di lavoro normale nel caso di Yon Kazaku, o in cose ancora più grandi come nel caso di Kenzaro Uiwa. Sono piccole storie, però sono emblematiche e significative della situazione e di come può essere crudele il genere umano quando vuole. Ma raccontiamo la storia di Yon Kazaku, visto che voi avete, diciamo, dedicato un pezzo proprio a Yon Kazaku. Chi era? Per chi non... Yon Kazaku era un immigrato venuto in Italia con la propria famiglia a lavorare onestamente, e ha fatto un sacco di anni a lavorare in nero, e un giorno ha chiesto in un piastrellificio, se non sbaglio un po' l'edificio di Varese, ha chiesto al suo padrone, al suo datore di lavoro, di avere un contratto regolare di lavoro normale per poter pagare i contributi, per poter diventare vecchio serenamente con la propria famiglia. E questa la risposta è stata negativa nel peggiore dei modi, è stata una rissa, si sono menati, e il suo padrone l'ha cospasso di benzina e gli ha dato fuoco, ha visto morire. Yon non è morto subito, si è impiegato e dopo un mese è morto, che ha chiesto un contratto di lavoro, niente di più. Abbiamo visto, io ho visto tra l'altro l'intervista della madre di Yon, era veramente straziante. Senti, ma parliamo di musica. Dal vostro primo album siete molto cresciuti musicalmente, ora diciamo siete al centro della scena rock italiana, ma siete rimasti fedeli, diciamo, al vostro stile musicale. Vorrei chiederti, come avete scelto un artista come Caparezza per una canzone così forte come Cuore d'Oceano? Allora, Cuore d'Oceano è un esperimento perché è una canzone con una base strana, che parte da un giro di elettronica, una chitarra a 12 corde che fa un accompagnamento, ci sono gli Aucan che fanno parte di violenza alla cosa, e ci serviva, volevamo un personaggio fuori dal contesto del Teatro degli Orrori, pur essendo abbastanza vicino se vogliamo, come tipo di tematico, di ambiente culturale in cui muoversi. E Caprezza è stata una parola, una persona che ci è venuta, un artista che ci è venuto in mente al volo, perché oltre a essere uno dei nostri fan della prima ora, ogni volta che esce un disco del Teatro di Orori, chissà perché Caprezza si muove per farci complimenti senza che noi lo conoscessimo. Questo giro abbiamo pensato a lui e abbiamo detto perché no, proviamo con Caprezza a vedere cosa succede. Sapevamo benissimo che era distante anni luce dal nostro modo di fare musica prettamente, a livello proprio prettamente musicale, però non gli abbiamo dato fiducia. Lui ci ha portato sorpreso con il risultato di quello che poi è diventata la canzone, e quindi l'esperimento in qualche modo è riuscito, secondo noi. Insomma, abbiamo cercato di fare un crossover, una commissione di generi lontani tra loro, Aucan, Teatro degli Orrori, Caprezza, che però hanno dato come frutto, secondo me, una bella canzone. Quando si fa una bella canzone io sono sempre contento. E Capovilla cosa ne pensa? Dovrà cantare poi con, diciamo, con la voce di Caprezza? No, dal vivo per il momento non la facciamo, non siamo ancora riusciti a riprodurla. Se per l'estate non so se ci proveremo, ci abbiamo già provato, perché ci riproveremo. Può farla con una molletta nel naso, magari. non lo so. È chiaro che Pierpaolo non si mette a cantare come Caprezza, però la cosa bella è che Caprezza ha scritto il testo e l'ha cantato cercando di pensare come avrebbe potuto Pierpaolo cantare la canzone nel teatro degli orrori. Ma dai, ve l'ha detto lui questo? Rana, sì. Ah, che figata. Senti, invece ho letto su una vostra intervista su Rolling Stone, che ricordiamo ha dato al precedente album, ha inserito il precedente album con al 30° posto dei 100 migliori album usciti in quell'anno. Ma leggevo in questa intervista che avete avuto dei ritorni positivi dalle citazioni di scrittori e poeti di cui voi vi occupate nelle vostre canzoni, e che gli stessi fan vi propongono letture magari impegnate da cui trarre ispirazione. Cioè, è una cosa insolita per una band: invece di chiedervi gli autografi vi regalano i libri. Sì, succedono queste cose, sì, è vero. Ho raccogliuto libri di poesie, mi hanno regalato un libro di Bukowski, un sacco di cose. Anche Pierpaolo tutte le sere arriva a casa che dice: ma come, siamo dei musicisti, mi aspettavo soltanto autografi per prendermi a casa con delle raccolte di poesie. È carino, va bene, vuol dire che la gente ha a che fare con noi come con delle persone intelligenti, tipo, buona cosa. Senti, ti faccio fare una domanda dal mio collega qui in radio. Ciao, io sono Antonio, sono rientrato adesso in radio dopo un mese di assenza. E in questo mese sono stato a Milano, purtroppo forzatamente, e quindi ho seguito il concertone del 1° maggio da Rai 3. È stata una gran giornata perché mi avete fatto compagnia, perché è stato un periodo un po' difficile. E al 1° maggio siete stati grandi, anzi, proprio riprendendo l'argomento che trattavate adesso con Andrea, credo che i momenti più alti, insieme alla riproposizione dei grandi brani rock orchestrata e diretta dal grande Mauro Pagani, siete stati voi e Caprezza. Quindi vi faccio i complimenti e ti chiedo com'è stata l'esperienza del 1° maggio. Non si può non chiedere davanti a 500.000 persone in un evento sempre atteso ogni anno. Va bene, è stata una bellissima esperienza, Sì, sai cosa? Noi abbiamo cercato di affrontare il 1° maggio come lo ho fatto, come lo fa il Teatro degli Orrori, per cui siamo fondamentalmente un po' dei rompicoglioni che tengono tanto la questione tecnica, cerchiamo di fare le cose fatte bene perché il risultato deve essere il migliore che possiamo. E abbiamo fatto il nostro meglio e credo che la cosa sia venuta fuori. Abbiamo fatto un pochino la differenza, mi fa piacere soprattutto che l'Italia finalmente possa vedere in televisione, se ha ancora senso vedere qualcosa in televisione, un gruppo come Teatro degli Orrori, perché vuol dire che qualcosa sta succedendo, insomma, soltanto l'entertainment. Guarda, volevo chiederti una cosa proprio a questo proposito. Voi avete come casa di produzione La Tempesta, La Tempesta, che tiene tra l'altro tantissimi artisti come Le Luci della Centrale Elettrica, Rosso Fuoco, Giorgio Canali. Sì. Quindi volevo chiederti la situazione odierna del panorama indie. Noi abbiamo chiesto anche altri artisti che ci hanno raggiunto in questa rassegna di indie rock, non vogliate, ma neanche se voi vi siete definiti commerciali, ma con il senso buono del commerciale, no? La situazione del panorama indie in Italia sta cambiando, cioè si sta creando veramente un movimento indie che è seguito dalla gente, non è più un movimento di nicchia. Credo che ci sia un elemento di ciclicità della storia in questa cosa. Ogni tanto di tempo il sottosuolo viene a galla perché il suolo fa schifo, e quindi è giusto che vengano fuori cose da sottoterra. In Italia, forse anche grazie, spero, anche un pochino grazie al Teatro degli Orrori, si è preso un po' più di coraggio rispetto a, alla musica e come affrontare la musica, e ci sono diverse realtà anche molto piccole che però sono molto interessanti e possono venire fuori, e se io posso essere in qualche modo anche indirettamente promotore di questa cosa, ben venga, io sono felicissimo. Noi sicuramente li stiamo intervistando tutti, soprattutto visto che avete fatto una collaborazione anche nel video con gli Zen Circus, che sono in giro da un po' di tempo, e come è stata questa collaborazione? Avete contattati voi per il video oppure c'è stato proprio un mashup che è andato così? Guarda, allora Andrea Pino era in studio, intanto che noi eravamo in studio, è passato di lì, ha detto: perché non fai la chitarra su sta canzone? E lui l'ha fatta. Si trovava lì anche quando registravamo il video, ha detto: perché non ci metti la faccia? E lui l'ha fatta. Ah, è stato proprio così? L'ha fatto funzionare molto semplicemente. Come? No, dico, è stato proprio così, una carambata. Sì, no, non c'è niente di difficile, sono semplicemente persone che si conoscono, ci si apprezza a vicenda e si può fare le cose assieme, qualsiasi esse siano. Dall'andare a cena a fare un video si può fare, se siamo amici si fanno le cose. Senti, guarda, stiamo andando, si sta prolungando troppo, io ti farei le ultime domande riguardo il tour, come sta andando? Ah, il tour sta andando benissimo, facciamo la marchetta, la prossima data è? Allora, la prossima data è l'Aquila, che è sabato sera, sabato prossimo siamo all'Aquila con gli After Hours per un concerto di beneficenza per far riemergere il problema dei terremotati, del terremoto, di tutto quello che è successo attorno al terremoto dell'Aquila. Cerchiamo di far ritornare un po' l'attenzione su questa cosa, credo che sia una cosa importante, quella è la data più vicina e più importante che abbiamo. Ah, voglio dirvi che vi ho visto a Palermo e siete stati bravissimi, per inciso, ma invece la classica domanda da giornalista di recensioni: progetti per il futuro? Progetti per il futuro è andare avanti con questo tour fino a quando riusciremo ad andare avanti con questo tour, faremo un altro disco, io credo. Intanto ci concentriamo sul tour, che non sia impegnativo, poi quando c'è il momento per muoversi non riusciamo a star fermi, per cui le cose nuove saltano fuori strada facendo, comunque c'è qualcosa in ballo. Va bene, allora noi ti ringraziamo Jonathan per questa intervista, scusaci se si è prolungato. Grazie un po' troppo anche per i nostri tempi radiofonici, sono abbastanza stretti, ti facciamo in bocca al lupo a te e a tutti gli altri componenti del gruppo, e ti ringraziamo per essere stato qui nei nostri microfoni con Radio Centrale. Ti lasciamo ascoltandoci la canzone di cui abbiamo parlato prima, che è Cuore d'Oceano. Ciao, grazie. Ciao, grazie mille, alla prossima. Tu fa di America del Nord. Rientriamo in diretta, abbiamo avuto un'intervista con il Teatro degli Orrori e sono veramente onorato di presentare, dopo 35 giorni di tournée, una tournée lui, al nord. Vabbè, studiando medicina devo fare una tournée ospedaliera. Esatto, cioè, esatto. No? Antonio, come potete vedere... Sono tornato. 35 giorni, ahimè per voi, sono tornato. Non urlare magari nel microfono. E ho cominciato perché... con Peano che mi sta circumnavigando. Sì, e appunto dopo di noi ricordiamolo che ci sarà... Feedback. Sarà Positive Vibration. Come vedevo Peppe, pensavo essere epurato. Positive. Dalle 21.30, no, dalle 21. Non sono esodati, cioè si parla degli esodati, pensavo che Azzarello è... No, scusami, dalle 21 alle 10.30, alle 22.30... Esodati o esodati, ora che c'è caldo. Vabbè, dalle 21 alle 22.30 Positive Vibration e poi seguire... Dalle 22.30 a mezzanotte feedback condotto oggi... da Peano e alla fine poi tutti sulla Tuscolana a battere. Esatto. Feedback, se usi il microfono... No, se usi il microfono di destra magari, noi ti sentiamo molto bene. Esatto. Se usi il microfono è meglio, di sai, destra. Sei in radio. La tua o la sua? No, la mia, quindi la quella tua. Là. La tua destra? Sì. Però io ho detto destra, lui si è messo nel microfono di sinistra sua. No, perché ha capito che volevi dire questo, cioè. Si sente meglio così che con l'interfono. Cioè, sì. Esatto. Ma lui ha capito tutto. Se tu te lo giri, io... No, perché ormai sono abituato, perché sono abituato a queste... Cioè, sentito una... Nulla, quando te hai preso poco fa, l'interfono era... E io ho capito, lui mi ha guardato e ha detto, che cazzo ha detto? Bravo, sono momenti... No, sono... così adesso di sentiamo come prima giro il microfono e poi te la giro nel... No. Sono contento che sono arrivato, ho fatto una domanda al frontman del Teatro degli Orrori e mentre la facevo Andrea indicava che era una domanda che già aveva preparato lui. Vedi come io prevedo e c'è rimasto anche male. Perché era proprio in scaletta, era la prossima domanda che avrei dovuto la fare. La successiva, in effetti sì. Poco fa hai detto una frase in radio, io ti ascolto, cioè in radio, qui ti ho ascoltato, stavo arrivando in macchina, compa non mi entrava la retromarcia, hai detto, ho detto una... cosa che si era incartata su se stessa, ma hai detto tautologia. Sì, tautologia ma... incartante se stessa, non sai, è una ridondanza. No, ha detto, è una risposta tautologia che si incarta da sola. No, che non ha detto che, ha detto una risposta tautologia. Non mi viene, vabbè, poi ve lo dirò. Ma sei mancato tu, allora, è mancato il completatore di frasi. Era stato un programma serissimo per 35 giorni. Minuti fa. Esatto, si torna a fare bordello. Sì. Esatto. Non ho un computer, non ho le ultime notizie, però posso dirvi tutto quello che è accaduto nei precedenti 35 giorni, perché che lo sappiamo in sì, però in ospedale tu cosa fai? Cioè o ti spari o guardi la TV o leggi i giornali. Quindi la mia giornata iniziava con Il Fatto Quotidiano, TG1, TG3, Omnibus, cioè tutto, io ho seguito tutto, non sapevo niente di TV, adesso sono un'enciclopedia. Vuoi darsi un tono, cioè sì, oggettivamente avrà visto sicuramente Prova del Cuoco. Sì, è capitato. È capitato. E sono andato anche nella zona mensa per cercare gli ingredienti. Medicina 33, tra l'altro. Ovviamente col bollo. Non lo so, continuiamo a fare sponsor agli altri programmi della Rai di Mediaset oppure... Senti, io il canone lo pago, va bene? Lo pago euro. E mi aggiunta la cazzo di pubblicità che voglio. Esatto. Siete Mediaset come a te. Venduto al sistema privato delle telecomunicazioni. Esatto. Ma io non sono venduto al sistema privato. Non ho fatto sponsor, neanche pubblicità. Ho semplicemente detto il palinsesto di una rete che paghiamo tutti. Fra un po' io chiudo l'acquario. Così noi ma poi e noi ce ne andiamo a Genova. Siamo arrivati qua, io e lui belli tranquilli. Insomma. Ricordiamo quando Andrea ti ha detto compare, metti lo stream. E si è spenta a termini. Sì, anche. La mia macchina è finita la benzina nel momento in cui. Blackout è arrivato a Palermo. Zona Perga, ecco perché non riuscivi a mettere la retromarcia. Bravo, non entrava per quello. Che si era spento. Perché non entrava. Quando... Sì, quando non entra. Non entra, è pericoloso. Si sta fottendo le mie nuove cuffie. Bravo, Azzarello, 120 euro di cuffie. Ora ci campi 6 anni. Ora siamo al completo. Siamo al completo, veramente. Benvenuto anche a Claudio Azzarello, che condurrà fra poco Positive Vibration. Scusami, ma il venerdì, quando eravamo veramente 856 persone nella vecchia radio senza acquario, siamo come si chiamava completo. Il programma? Ecco, era proprio siamo al completo. Non mi ricordavo. Io impersonavo il famoso fegato di Antonio Gatto, che oggi fa il compleanno. Il fegato o Antonio Gatto? Io ero il fegato di Antonio Gatto. Ma chi fa il compleanno oggi? Il fegato Antonio Gatto. Ah, Antonio Gatto. Allora facciamo gli auguri al consigliere Antonio Gatto e mentre gli facciamo gli auguri, sì, vediamo se ci sono gli applausi. Esatto. Per Antonio. Ci ascoltiamo. Non è ora di andarsene, che inizio. No, io, ci ascoltiamo il prossimo pezzo, invece sono i Train. Basta. That's deja vu, but I thought this can't be true, 'cause you moved to West LA or New York or Santa Fe or wherever to get away from me. Oh, but that one night Let's skip to how you've been and get down to the more than friends at last. Oh, but that one night is still the highlight. I didn't need you until I came to. And I was overwhelmed and frankly scared as hell because I really fell for. Like you, I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, 'cause rientriamo in diretta, sempre con l'onda in onda, qui da Radio Centrale, Antonio. Io devo leggere un messaggio. Leggilo. Non capisco perché mi risulti connesso. Vabbè, questo è un problema. Perché, scusa, che cosa ce ne frega? Non ho nulla di connesso, comunque. Ti scrivevo che il Brumma, che sarebbe il nostro regista, Bummo. Cioè, Bummo. Brumma. Boffo. Brumma non l'ho mai sentito, cioè. Bummo, boffo, il Brumma. Brumma. C'è da dire che il... Comunque, ringrazio chiunque sia. Ti scrivevo che... Però il Brumma, devo dire che, insomma... Aspetta, fa la sua figura. Il Brumma, o come si chiama, sembra la tua brutta copia. Oh, fantastico. Mi dispiace, compare, perché... Tanto cioè, non ci quindi assomigliamo. Già c'è un paragone. C'è un paragone. Ma non poi è scusa, allora, io non so, non so. Ma poi Alessandro è molto più bello di me, quindi ma, non è giusto. No, ma non è questo il problema. Dico, il problema è, no, che è un problema, non so chi ti ha inviato il messaggio, ma dico, lui io è moro, io sono biondo. Ma Le magari i lineamenti, non so, perché c'è la webcam magari di profilo, il ciuffo. Che ti posso dire? Non lo so. Ma Tompa, se vuoi domani ti regalo una seduta di chirurgia plastica, così leviamo tutti i problemi e ti diciamo ai nostri ascoltatori che fra un po' sarà pronto il nuovo servizio di streaming col quale potrete vedere sia la regia che l'acquario. Si chiamerà Streaming la notizia. Sì, questo cos'era? Stai morendo. Sfiatato da solo. Allora, io volevo dire un po' di quelle notizie. Stronzate, sì, notizie. Quelle, sì. E di quelle notizie che noi abbiamo, che noi trattiamo ogni settimana, come quelle sì, notizie serissime tra l'altro, sì, cioè, sì. Notizie di importanza mondiale. No, le ho sentite da Milano, le ho apprezzate alcune. Sì. So che si parla sempre della linfomane. La linfomane ormai è diventata ormai un cult, un personaggio pubblico. Ma cioè, d'altronde, quando ti arriva la polizia e lei gli dice invece di arrestatemi, vi prego salvatemi, facciamo sesso di gruppo, come fai a non parlare di una donna così? Tra l'altro è una gran bella donna, 47enne. Io ho visto la foto. L'unico che ha visto la foto. Pensavo fosse una bufala. Poi quando l'ha scritto anche il Corriere ho detto cazzo, allora è vero. No, infatti, è vero. La foto io l'ho trovata. Ora non so se è la foto vera, però è una foto segnaletica di una gran bella donna. E cioè, potrebbe anche essere lei, dico, non... Quindi in galera immagino che lei si stia divertendo come una pazza. Alla grande, sì, si abbassa sempre a raccogliere la saponetta. Sì, ma anche i terzini tutti, certo, cioè lei non ha problemi, certo. Secondo me avrà un comodino con... Cioè si diverte col comodino. Sembravi quasi Andrea. Secondo me ha un comodino. Scusa, regia, un po' di volume, cavolo, non mi sento niente. Ah sì, quella cuffia lì non andava bene. Ma è perché, no, sai qual è il problema? Ah, Antonio, mi scrivono, no, mi riferivo a capelli e abiti. Capelli, ma che significa gli abiti? Ma allora una maglietta. Se abbiamo le mutande uguali, sia io e Antonio Panzica, siamo la stessa persona. Beh, Antonio le sta facendo vedere. Si spoglia, ma non ho quelle mutande io. Cioè, non è in quadrato. Mi ricordo quale mutande ho. Ah, ok. Antonio, già le fatte vedere una volta. Ricordi? Mutande, non ricordo. Non so se lo sai, Alessandro. No, non lo so. Non sapevo, mi scordai. Cioè, che la webcam inquadrava me e Andrea. Qui. Io dovevo andare, non mi ricordo dove, dovevo cambiarmi. Il bagno, non so perché non trovavamo la chiave. E inizio a cambiarmi dietro Andrea. Andrea fa: allora, Antonio sta per andare. Antonio, Antonio, sei inquadrato nella webcam. Io non lo vedevo, era dietro di me, lo vedevo al computer. Andrea, guarda come Antonio, sei in mutande in diretta. E tutti iniziano a schifo. Oh, ho visto Panzica in mutande, uno schifo, insomma. Qualcuna sì, qualcuno cioè, ha detto wow. Un regista così, dove lo trovi? Allora, io volevo invece parlarvi di una notizia molto interessante. Che è successa a Buffalo, è già la città, dice tutto. La mia città? Sì. Buffalo. È proprio Buffalo, questa è buona. Infatti un autoapplauso. O Brumbalo, aspetta Brumbalo. Che ci sta l'applauso Brumbalo. Per forza perché Brumbalo bravo, bravo. Jeremy Johnson, 20 anni. Mercoledì 9 maggio, quindi quando noi andavamo in diretta non potevamo darle... Jeremy Johnson. Jeremy, sì, perché è andato in Jeremy? Jeremy. Cosa hai detto? Jeremy, quello che aveva l'infezione, Jeremy Johnson. Jeremy Johnson. Compa, io cerco di andare dietro alle minchiate di Azzarello. Giova Johnson. Giova, Geremia forse. È andato... O Microbo. Microbo. Ecco, bravo. Fatto così non rompe più. È stato chiamato in giudizio per rispondere delle accuse di aver fatto irruzione in un fienile con lo scopo di fare sesso con un cavallo. Il ragazzo è stato accusato di furto con scasso, violazione di proprietà privata, atti sessuali contro gli animali e condotta disordinata. Condotta disordinata sembra l'accusa più brutta. Johnson è ora libero grazie al pagamento di una cauzione di $25,000. Tanto ci costa una ficcata, diciamo. Il ragazzo ha ammesso subito. Scusatelo, alle 10:15. No, non sono 10:15, l'orologio è sbagliato. Il ragazzo ha ammesso subito l'atto sessuale avvenuto venerdì 4 maggio in una stalla di Buffalo Township in Pennsylvania. Al poliziotto arrivato sul luogo, la gente aveva ricevuto una chiamata da alcune persone che avevano notato Jeremy aggirarsi in modo strano attorno alla stalla. Dopo il suo arresto, Johnson è stato portato in un centro medico per valutare se fosse infermo oppure no, e poi per poi essere processato per direttissima. Io ho due domande. Sì. Uno. Sì. Sì. Si aggirava in modo strano prima o dopo l'atto sessuale? No, perché dopo l'atto sessuale è comprensibile. È comprensibile. Vabbè, ma il primo potrebbe essere una sorta di danza per invogliare il cavallo. Non sappiamo se c'è. Poi, qualche altra movimento domanda: il furto con scasso, ma lo scasso l'ha fatto il cavallo? No, nel senso, l'ha fatto il cavallo, ma con lui. Un piede di porco. Compagno. No, ha scassato lui. Insomma. Può essere. Sì, certo. Se il non era un piede se il cavallo di porco. Era femmina ed è lui che ha penetrato la cavalla? Non ci credo, perché sarebbe come infilare un salamino nel corridoio. Come dice sempre, lui è sempre felice. Di riportare sì, questa cosa sì. Come quando tu hai iniziato a commentare quella cosa di Einstein dicendo che non era di Einstein. La cavallina, secondo voi. Attenzione, arrivano commenti dall'esperto sessuologo alle spalle. Il buon feedback. Sì, oggi è una puntata tutto senza questo... un senso. Mi avete chiuso ancora i microfoni? No, ma se parli e ti senti, è come quando chiama tua madre a casa, tu rispondi: pronto, ragazzi, mamma, sei a casa? No, no, mi porto il telefono fisso in giro. Il volume è veramente basso per quello. Fatti tuoi, forse ma sei solo. Soltanto fatti tuoi, io ti sento altissimo. Mi senti io pure ti sento altissimo. Vivissimo, levissimo. Esatto. Pronto, ecco, adesso mi sento meglio. Tu vedi che non ho fatti troppo. Allora, di che si parlava? No, ma avete saputo invece di... Avete saputo di Sarkozy e Hollande? No, veramente. Sarkozy e Hollande, scherzavo. Hollande e la Merkel. Ah. Lui ha fatto un errore di protocollo. Cazzate, però è divertente il video. Tutti e due camminano tipo soldatini. Lui e la Merkel, che è andato in Germania. Davanti a, insomma, una schiera di soldati. Lì non so che manifestazione. Non è che carro. Gli ha detto che è una culona inchiavabile. No, quello era un altro, sempre sul... insomma, un po' era latino. Un altro primo ministro. Un altro prime minister, ora che va in Russia adesso a divertirsi. Io compagno. Sì. Camminano, fanno la curva del tappeto. Lui se ne sbatte del protocollo e taglia la strada alla Merkel. Ma non è che la Merkel resta impassibile e va avanti. Questa è la Merkel, lei che non c'è la webcam. Tipo dice: lo ammutta, letteralmente viene spinto. Lui tipo: ma che cazzo? Poi capisce, ci resta di merda e continua a camminare in modo incredibile. Guardate il video perché merita. Lo guarderemo. Comunque, insomma, almeno Francia... non gli ha fatto cucù. Diciamo. No, Francia... non gli ha fatto cucù. In Francia ha vinto Hollande. No? Se a Palermo vince Orlando, cioè... ma infatti si parla di Hollande perché lo chiamano Hollande. Sindaco Hollande è tutto nome e cognome, cioè diciamo a posizione e nome. Sì. Sindaco Hollande. Va bene, io direi. Ma voi chi votereste? Io voterei. Se foste palermitano. Io Giova Johnson. Ok, Peppe? Io assolutamente Giova Papà. Però ora i Giova sono finiti. Alessandro ha detto boffo Brummo il Brumma. Io voterei la Ninfome. Ok, tu? Io non voterei. Voterei Radio Centrale. Allora io voterei. Io Marchetto. Allora io. Che Marchettaro venduto. Anzi, io voterei Yurung Zabrumu, che sarà il prossimo ospite di Positive Vibration. Più precisamente Vibration. Voterei Positive Vibration perché, cioè, capisci. Ma chi avete stasera? Raffaele. Aspetta, aspetta. Vedi che qua c'è una nostra ascoltatrice che appena dici il nome dell'ospite si eccita. Ridici il nome di stasera? No, prima devi dire il nome. Si è citato già prima. Raffaele. Gualazzi. No, magari. No, è un cognome un po' strano. Abbiamo dillo, perché la ragazza aspetta. Ma come non lo so dire? No, è così strano. Colpo di scena. È qualcosa come un Keurbem, qualcosa del genere. Vedi, anche se non si capisce la ragazza è di origini nigeriane, ragazzi, insomma, bene. Ecco perché la ragazza apprezza. Va bene, facciamo un taglio, ci ascoltiamo un pezzo per il quale verremo mandati fuori da questa radio e forse da tutte le radio nei prossimi 20 anni, ed è Bevi compagno Bevi. No, il pezzo più anticlericale degli ultimi anni. Sì. Io mi dissocio. Bevi, bevi compagno, se no t'ammazzerò. Non m'ammazza compagno, che adesso beverò. Mentre il compagno beve, la canteremo, la canteremo. Mentre il compagno beve, la canteremo, la rillerà. Canzone che ammazza i preti, la la la la la la, mazzava una che preti e frai, la la la la la la la la la, la canzone che ammazza i preti, la la la la, mazzava una che preti e frai. Nasce l'anarchia, un bel pranzo sa da fa, tutto vitella e manzo, seduimo da magna, seduimo da magna, e un frittare di monache, preti e frati spezzati, l'ossa desti maiali. Cani sa da da, ai cani sa da da, e le chiese sa botteghe, i preti sa mercanti, vendono madonne e santi, e a noi ci credono vecchi e poveri ignoranti, vecchi e poveri ignoranti, la la la la. Direi di rientrare sopra direi questa. Direi che hai deciso di farci cacciare. No, io direi che mi dissocio subito. Brummo, tu sei dei miei o dei loro? Io non sono di nessuno. Lui è un regista, sono, quindi segue regista, degli ordini, come ad Auschwitz. Devo redigere, io devo redigere. Questa era dedicata a... No, non ti sentiamo, Peppe, devi parlare al microfono. Questa era dedicata al Carnial Bagnasco, sì. Ovviamente. Con tutto il cuore, anche perché le ultime cazzate, no, che ha sparato il Monsignor lì di Venezia, il Vescovo di Venezia, qualcosa del genere. Insomma, che praticamente la musica rock, no, fuorvia lo spirito. Fuorvia. Sì. Praticamente, oltre ovviamente a tutte le varie cazzate propinate, insomma. Compare, ma in ogni categoria. Aspetta. Anche la musica rientra nella nostra. Nel nostro malcostume, nel nostro essere malsani, sì. Quindi ricordiamo sempre a questa gente che forse Satana si trova dentro la mano di qualche peccato che la infila sotto qualche gonna degli innocenti, no? A parte che nella musica rock, ovviamente. Ma Peppe, lo sappiamo benissimo. Poi, se dobbiamo stare a discutere delle categorie in cui ci sono personaggi che dicono delle merite cazzate, possiamo parlare di qualsiasi categoria. Aspetta, io sono credente, ma non difendo la Chiesa a spada tratta, no. Ma manco per niente. Quindi dico, se ne può discutere perché ci sono persone di merda e persone che invece sono valide, perché dire che tutti i preti fanno schifo o tutte le suore fanno schifo non è una cosa intelligente, perché le generalizzazioni non fanno bene a nessuno. No, Peppe, no, Peppe, che, perché se sei intelligente non mi puoi dire che sei d'accordo con questo. Assolutamente, generalizzazione assolutamente no, però qui non si tratta di una sparata di un cretino, qui si tratta di una posizione ufficiale. Ma ci sono vertici alti che sono che non sono in questi casi specialmente i gradini bassi sono secondo me mille volte meglio dei gradini alti piatti pieni d'oro e di diamanti, ok? Cioè, io la penso così. I preti che vanno per strada a salvare gente che sta male o che vanno in Africa in missione valgono mille volte di quelli che sono in TV al microfono, che non, perché sì, non li conosce nessuno. Si parla solo di preti e non si parla dei laici che vanno in Africa. Sì, ma siccome questa canzone parlava di preti, io non sono d'accordo. Se tu mi avessi detto come? Tutte le persone che dicono a sproposito delle cazzate, ma che sono all'interno della chiesa, potevo stare d'accordo. Ma io mi dissocio. Io mi dissocio. Una persona che dice a sproposito una cazzata, quello è un verso, rappresenta, un ho capito, è che esprime una posizione ufficiale. Ma quante cioè, volte ma lo so, ma la chiesa, cioè, come il catechismo, la chiesa composta da esseri umani, come uno che spara una cazzata, sì, ok, d'accordo, ma la chiesa, come i partiti o altre associazioni che hanno delle gerarchie, hanno all'interno anche nei vertici delle persone che le dicono grosse, da cui tu ti vuoi dissociare, ma non per questo smetti di credere che tutto, o inizi a credere che tutto faccia schifo. Generalizzare mai, cioè mai. Non so, se ne può discutere tanto, che, è un discorso un pochettino particolare, ma appunto perché non si può ridicolizzare, è un tema caldo su cui discutere, secondo più me. Al momento siamo, diciamo, 1-0 per Panzica, Peppe, stai un po' perdendo colpi. Non è che vado perdendo colpi, è che non posso esprimere perché non è il mio programma, il vostro non vi posso fare. No, vabbè, ma io dico, ma infatti ho precisato che è una cosa, una discussione per ampia. Appunto il programma di Panzica. No, ma non è mio, è di tutti qua, cioè, come vedi, oggi siamo tutti qui. Sono delle stronzate assurde perché noi siamo stati condizionati da veramente per millenni dal Vaticano. E quindi la nostra morale, la nostra dottrina è completamente farcita di puttanate cattoliche. Quindi fondamentalmente, vabbè, credo che questa di oggi sia la puntata con più parolacce mai dette in tutta la stagione dell'Onde. Oddio, io ripescherei un sobrio in non lo so. Io pescherei un maggio 2010 che ne abbiamo detto veramente un centinaio. Le vecchie stagioni. O i venerdì sera siamo al completo in cui arriva Carlo Arrigo. Che puttana! Così per cominciare. Poi sì, infatti, tanto per entrare. Comunque, a me piace discutere con Peano, anche se siamo su posizioni differenti, perché io voglio un gran bene, lo conosco da appena 22 anni, dico, però ovviamente ci vogliono sedi anche sono più adatte. Sono 22 anni che ci conosciamo. Avevamo 3 anni quando eravamo alla il 23esimo anno di conoscenza meditero sul suicidio. Bravo, ma quindi tra qualche mese, non è lontano. L'ultimo che ha detto una cosa di questa era il sindaco, e noi salutiamo, e se l'è presa con tutta scaccia, volendolo quasi. Mi chiedono chi è quella ragazza, possiamo informare sulle generalità o no, perché l'hanno vista in webcam. Sì, possiamo dare il numero anche, no? Sì. No, era prima il allora il numero è 385. Che non si spoglierà in webcam, quindi non ce lo esatto. Chiedete. Come ti chiami? Che non voglia. È aperto il suo microfono. Sì, almeno saluta. Ciao a tutti, io non so. Ma aspetta, ciao a tutti, io non so. Io non so. Ciao a tutti, io non so. Quindi sono emozionato. È come quando Carmelo Bene andò ospite al Maurizio Senso Show. Io che sto parlando, per questo non sono io. Lei sta dicendo qualcosa di simile. Bravo a citare Carmelo Bene, perché poco fa, appunto, abbiamo discusso con Peppe su Carmelo Bene. Ah, addirittura. Sì, un grande. Io lo stimo in modo allucinante, un grande. Anche il modo di approcciare comunque del cantante del teatro degli orrori, che si è dissociato completamente da quello che era la vecchia band. Non so se tu gliel'hai chiesto, i One Dimensional Man. No, non gliel'ho chiesto, ma perché peccato. Tantissime interviste citavano i One Dimensional Man, e a quanto pare non ne potevano più di parlare solo dei One Dimensional Man, scusatemi. Ma ha creato un altro gruppo, ragazzi, qualcosa di sensazionale per Andrea, sì, che parla di One Dimensional Man. Cercavo di prendere fiato mentre parlavo. Fantastico. È stata una stronzata. Sembra quello degli scherzi di Thomas Muccari quando chiamava a casa e gli diceva: signora, sì, esatto, una super cazzola, con scappellamento, una super cazzola con tipo gli Antanni, no? E mi dispiace anche, non so, che Carmelo Bene si sia prestato comunque al Maurizio Costanzo, perché onestamente una persona di quella caratura. Vabbè, ma tu l'hai visto, però, cioè l'avrei vista la registrazione. Sì, ho visto la prima e anche la seconda. Ha stravolto, ha stravolto il Maurizio Costanzo Show. Ma tra l'altro anche Maurizio Costanzo, ecco, è un altro che mi ha deluso enormemente, perché se tu vedi le prime cose che ha fatto sembra un altro, non è la persona che c'è. Cioè lui è stato il primo, per esempio, a sdoganare, a parlare dell'omosessualità in TV, a dire non rompete i coglioni perché non è una malattia, e portava io omosessuali per la prima volta in TV parlare ai genitori. Cioè ha fatto delle grandi cose Maurizio Costanzo. No, poi è diventato una merda, però all'inizio faceva delle grandi anche cose. Anche artisticamente, portare qualcuno come a Carmelo Bene, insomma, caspita, cioè, caspita. E perché dovevo compensare? Come hai fatto a dire caspita? Ma sti gran cazzi, no, cioè, no. Portare qualcuno ho detto come caspita, scusami, ti prego, dai. Sapevo che tu ci tieni al contenuto. Intanto è arrivato Bob Marley, cioè uno con la maglietta di Bob Marley che saluta, è un fan, un deficiente, fa solo questa cosa, in tutta la vita saluta. Allora, lui è il... vorrei dire a chi ci sta ascoltando oggi per la prima volta che la puntata di Londra non è così. Oggi non si sa bene perché sono venuto in tutto C'è una grande... Sono arrivati tutti quanti in questa puntata. No, a noi fa piacere perché insomma è sempre bello avere compagnia. Però partiamo al prossimo pezzo perché già è tanto che parliamo e dobbiamo lasciare la linea ai... sono le 20:55. Vibration, sì. Allora infatti, salutiamo adesso. No, pezzo salutiamo visto che ci hanno rubato tanto tempo. Noi ci rubiamo, gli rubiamo 5 minuti. Ci ascoltiamo chi sono? Fan, i fan. Quelli che ascoltano altri gruppi, compa. Tipo Riccardo, fai vedere. My fan, avranno dei fan. For me, just across the bar, my seat's been taken by some sunglasses, asking about a scar, and I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. We are young, so let's set the world on fire. We can burn brighter than the sun. Now I know that I'm not all that you got. I guess that I just thought maybe we could find new ways to fall apart. But our friends are back, so let's raise a towel, 'cause I found someone to carry me home tonight. We are young, so va bene, siamo in chiusura. Allora, salutiamo tutti quelli che sono stati con noi, i fan del Teatro degli Orrori che saranno rimasti veramente, avranno avuto l'orrore alla nostra trasmissione visto questo casino che c'è stato questa sera. Ma anche i fan dei fan. Anche i fan dei fan, sì, che sì, sono scritti. Che al mercato mio padre compa arriva un altro ospite in radio, non so chi sia. Stasera c'è il delirio qua. Stasera, cioè, qua dentro veramente sembra le poste il 28 di marzo, ma sai quando c'è proprio gli ultimi giorni, sì, io ti ingegno a fare le bollette. Va bene, allora, salutiamo tutti, vi ricordiamo che subito dopo di noi ci saranno ci sarà Positive Vibration condotto da Claudio e Riccardo, che avrete l'avete capito stasera. Hai visto che mi sono girato il collo, quindi mi ha chiuso la via. Quando si gira il filtro si ottura, quindi le parole non escono più. Volevo capire chi avrete stasera in intervista. È tardi? Ah, gli è tardi. Hanno Rafael stasera. Rafael è tardi. Ho capito, grandissimo. Io devo dire un'ultima cosa ed è seria. Sì, vai. Io stasera non sarei dovuto venire qui in radio. Devo ringraziare il mio amico Andrea Massaro che mi ha convinto, perché io non sono in un periodo facile, ed è la verità, non è uno scherzo, non è una battuta. Mi ha convinto e devo dire che ho fatto bene ad ascoltarlo a venire in radio. Quindi io ti dico grazie, compare. E ora suca. Abbiamo mandato anche il bacino. Va bene, va bene. Grazie Antonio per essere venuto. Applausi dalla regia, ovazione. Passiamo la linea a Positive Vibration. Rimanete con noi sempre su Radio Centrale 97.5.it. Ci vediamo mercoledì. Non è vero, ho sbagliato, ho detto una minchia. 97.5. Ma che cazzo dici? Ma che dici? Scusate. Radio Centrale, ragazzi, ci siamo trasferiti con Redirect 95.it. Io questa poi nel podcast la taglio. No, tu la lasci. Questa è la punta di diamante. Allora, volevo dire, sempre su radiocentrale.it 97.5, e invece ho fatto, ecco, ho unito le due stronzate. Va bene, buffo. Allora abbiamo buffo, boffo, il brumma, il brumma, il brumma. Mi metti per favore gli STDC, così usciamo almeno con stile. STDC, dai, mettigli gli STDC. È meglio che ci vediamo mercoledì prossimo. Sembra il nome di una catena di supermercati. Posso dire una cosa a tutti quanti? Sì. Anche a chi ci ascolta. Sì. Mandate tutti a fanculo. Ciao Andrea, mercoledì prossimo. Ciao. Ci ascoltiamo gli STDC, ciao.